Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ebbene sì, anche se non è la mia fascia oraria, ma Agostino Spolore è ancora qui con voi, anche se non è Blu Radio Siena, ma questa è Rock Wave, il programma che va in onda, la fascia oraria, o meglio, che va in onda tutti i giorni dalle 22 o 22:30 a seconda delle giornate. Buonasera, dicevo, da Agostino Spolore e anche dal mio consueto compagno di viaggio di tante interviste, il nostro caro amato Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa è Blu Radio Veneto, oggi è giovedì 10 febbraio 2011, vi ricordo le nostre frequenze che sono 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito è ovviamente www.bluradioveneto.it, abbiamo la pagina su Facebook che appunto è Blu Radio Veneto, oppure se volete sapere qualcosa di più in merito al Rock Wave, appunto si chiama Rock Wave la pagina su Facebook. Il nostro numero telefonico di studio è 049 875 6423. Se ci volete raggiungere tramite un SMS, vi ricordo è il 346 23 20 033. Abbiamo lo streaming audio sempre 24 ore su 24, collegandovi nel sito appunto di Blu Radio Veneto. C'è un rettangolino rosa, una freccia nera piccolina sulla sinistra, e cliccando lì entrerete comunque sempre in diretta con noi 24 ore su 24. E poi quando ci sono i live come questa sera, c'è anche lo streaming video, collegandovi nel sito www.direttarockwave.tk, potrete sentire e vedere gli artisti. Questa sera è un artista accompagnato da altri artisti, ma soprattutto è un carissimo amico. Blu Radio Veneto è veramente onorata di averlo qui, io personalmente per primo, perché ci siamo sentiti tante volte anche al telefono, è diventato veramente una grandissima amicizia, un grande affetto. Vi presento uno dei più bravi cantautori italiani che abbiamo in questo momento, si chiama Luigi Mariano. Ciao Luigi. Ciao Agostino, ma tu mi fai arrossire. Che cosa dici? Si vede con la webcam. Si vede anche in web. Stai attento alle parole che dici. Grazie di questa accoglienza e grazie del vostro affetto che mi avete sempre dato fin dall'inizio, devo dire. Anche da parte di Maurizio, naturalmente, e da parte di Alberto. Dal Salento con furore musicalmente parlando, Luigi, allora. Sì, il Salento, diciamo, è la mia terra d'origine, a cui sono legatissimo, anche se a livello musicale un po' è entrata nel cliché della pizzica, poi in realtà da lì derivano tantissime altre cose, insomma, da lì intendo dal Salento, che non sono solo pizzica naturalmente. Sono a Roma da un bel po' di tempo, da quasi una ventina d'anni, perché mi affascinava molto Roma, sono arrivato anche per motivi di studio, ma poi mi affascinava soprattutto girare un po' nella capitale, mi affascinava pensare di girare in questi locali, assorbire più musica possibile, ecco, quindi da parecchio tempo sono lì e assorbo il più possibile. Certo, hai subito tanta musica, ma avremo tempo di parlarne fino a mezzanotte ed oltre, mezzanotte e uno o due minuti, vero Agostino? Certo, siamo qui, anche perché stasera sarà una serata splendida. Poi forse chi è collegato con le webcam può anche vedere che Luigi non è solo, ma ci sono due grandi artisti padovani, io quale... Tra l'altro anche a loro io sono molto affezionata. Uno è un grandissimo chitarrista, lui quando suona la chitarra la fa veramente parlare, c'è Domenico Calabrò. Ciao Domenico. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, lui lo conoscete perché intanto fa, cosa fai? Il tour, in ogni band tu ci sei. No, beh, sono qui come, insomma, sono amico di Luigi e ospite a casa mia. Ah, ecco, vedi. Addirittura nella stessa stanza, quindi ah, io, allora, lo ringrazio. Non nello stesso letto. No, nello stesso letto no, però bisogna dirlo anche in diretta. E poi abbiamo uno dei più grandi cantautori padovani, già conosciuto anche per chi conosce Mina, sa che lui ha scritto una canzone per Mina, Andrea Paglianti. Ciao a tutti, buonasera. Quindi abbiamo un parterre questa sera eccezionale, Maurizio, abbiamo grandissimi ospiti. La crema della musicalità padovana, praticamente. È romana. Beh, ma adesso possiamo dire che Luigi è un padovano d'adozione. Ma in effetti non è la prima volta che vengo a Padova, ho suonato in alcuni locali che... tra l'altro, conoscendo Andrea, insomma, da un po' di tempo, mi aveva suggerito proprio lui, quindi ho trovato anche delle persone che mi seguono qui, e quindi questo mi piace tantissimo, veramente, tanti amici che vengono spesso ai concerti. Bene, salutiamo anche Alberto, che è nascosto, Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che ha collaborato grandemente che tu venissi da Roma fino a qua. Alberto, è stato straordinario, tantissime mail che ci siamo scambiati nell'ultimo anno e mezzo praticamente. Esattamente. È stato straordinario con me, sì. Beh, tu sei diventato un amico di Blu Radio Veneto, quindi siamo onoratissimi. Ho cercato di fare pubblicità possibile a questa radio, perché vi ascolto da tempo. Poi le puntate che mi perdo me le ascolto sul podcast, quindi ho ascoltato tantissimi artisti, anche alcuni che conoscevo personalmente, che non sapevo che fossero venuti qui. Per esempio, non sapevo che fosse venuto qui Valerio Billeri, che certo, è un mio amico cantatore di Roma, non sapevo assolutamente. L'ho ascoltato in podcast e anche altri, insomma, che ho ascoltato per esempio con grande attenzione tutta la puntata su Piero Sidoti, cantatore, sì, che ha vinto ultimamente il Premio Tenco. Premio Tenco, esatto. È stato, no, vi ascolto spesso. Bene, bene. A noi piace fare molti live proprio per dare spazio agli emergenti, per dare spazio a chi appunto non, magari non è molto conosciuto, ma che comunque a volte capita, anzi spesso, che sia decisamente migliore rispetto ai big. Questa è un'affermazione coraggiosa. No, io lo dico pubblicamente e me ne assumo la responsabilità. Non faccio nomi, ma ci sono veramente degli artisti. Io quello che posso dire, e lo veramente questo ci tengo molto a dirlo, è che la musica io ascolto, cioè veramente quella in macchina, è soltanto musica emergente. Cioè ascolto Andrea, ascolto i miei amici cantatori di Roma. Quindi veramente, ma quindi questa è la prova anche provata che insomma è musica buona ad altissimo, certo, livello. Allora, noi ne abbiamo avuti tanti di personaggi illustri, cioè non illustri, scusa, ma che sono bravissimi e hanno regalato emozioni a non finire per tutte le puntate che sono state presenti. E che verranno, che verranno. E che verranno, ne abbiamo, abbiamo già in lista. Programmazione. Altre. Esattamente. Vogliamo ascoltare chi è Luigi Mariano, una canzone dal suo lavoro, dal suo disco, che tra l'altro non abbiamo ancora detto, ma è Luigi, non lo sai, te l'ho detto pubblicamente, lo faccio adesso. È stupendo. Ti è piaciuto il disco? È un disco bellissimo, mi è piaciuto subito. Cosa ci ascoltiamo? Io volevo mandare una canzone che tra l'altro ultimamente ho presentato a un concorso e sono arrivato secondo in questo concorso, si chiama Premio Augusto D'Aoglio, dedicato, sì, al leader dei Nomadi scomparso. Insomma, i primi classificati andavano ad aprire il concerto dei Nomadi e lo farò io il 20 febbraio a Novellara. Certo. E quindi questa canzone, anche giusto per ringraziare questa canzone, la vorrei adesso che tu la mandassi in onda, appunto, che è Il Negazionista. Ok, l'ascoltiamo. Massacrato tutti i galli ed Erode non ha mai sgozzato bimbi come agnelli. Qua nessuno ha messo mai sulla croce il Galileo e il nazismo non ha mai sterminato un solo ebreo. Non esiste, non esiste, non esiste nessun appalto truccato. Non esiste, non esiste, non esiste un concorso comprato. È una palla il genocidio dei nativi americani ed in Cina mai un eccidio dei fratelli tibetani. A Guantanamo che belle quelle notti di Natale, si perdotta a 5 stelle, non si sta poi così male. Non esiste, non esiste, non esiste nessun danno ambientale. Non esiste, non esiste, non esiste la violenza bestiale. Verità imprendibili non hanno complici o assassini. Quante ricerche inutili per Don Chisciotte un po' cretini. E poi nel cielo di Ustica non è successo alcun errore. Chi fa illazioni e critica è solo un fine mentitore. Non esiste, non esiste, non esiste il ricatto privato. Non esiste, non esiste, non esiste un complotto orchestrato. E non ha mai la santa sede con le banche speculato. E c'è ancora chi ci crede agli accordi mafia-stato. È pietoso il qualunquismo delle pubbliche opinioni. Difendiamo l'affarismo delle sante istituzioni. Non sono matto, no, io nego tutto. All'universo violenza sleale. Non esiste, non esiste, non esiste l'ingiustizia sociale. Non esiste, non esiste, non esiste un pianeta malato. Non esiste, non esiste, non esiste nessun corpo straziato. Non esiste, non esiste, non esiste nessuna guerra alle porte. Non esiste, non esiste, non esiste forse neanche la morte. È un disco bellissimo, ve l'ho detto, questo era un pezzo tratto dall'ultimo lavoro di Luigi Mariano. Questa è la canzone che hai presentato al concorso di Augusto D'Aoglio? Sì, al premio Augusto D'Aoglio di Sulmona, perché pare, ho scoperto negli ultimi tempi, che in realtà questi concorsi dedicati al grandissimo Augusto sono anche parecchi in tutta Italia, però questo credo che sia il più importante, e appunto mi ha dato, come dicevo prima nella presentazione della canzone, l'opportunità importante di aprire il concerto dei Nomadi. Saranno, mi hanno detto, migliaia le persone presenti a questo mega raduno di Novellara il 20 febbraio, perché pare che ogni anno ci sia questo raduno, no? Esatto, certo. Nomadi incontro, così chiamato, in onore di Augusto D'Aoglio, che è appunto era di Novellara. Quindi canterò un paio di brani, tra cui anche questo, ovviamente, in questa bellissima serata. Ricordiamo che quel premio l'ha vinto Frida Neri. Frida Neri, sì. È un po' un punto d'orgoglio per noi, perché la settimana prossima l'avremo qui. Sarà presentata. Se ascolta, la salutiamo. Sì, penso di sì. Poi hai conosciuto anche qualcun altro lì a quel Devo dire che una delle ragioni più belle e più importanti, veramente, che mi porta a iscrivermi a volte ai concorsi, come è successo anche con Andrea, perché noi ci siamo conosciuti a un concorso a Verona, è proprio conoscere nuove persone, nuovi artisti, nuove grandi anime, veramente. Ho conosciuto Frida in questo concorso, ma anche tantissimi altri, tra cui anche, faccio un nome, per esempio Raffaella Daino, che è arrivata anche, ha vinto il premio della critica. Raffaella ha vinto il premio della critica? Sì. Hai vinto il premio, Raffaella? Ciao! Non è possibile. Ciao Costino, ciao Luigi. Ciao. Beh, che è bella sorpresa. Abbastanza emozionante sentirti al telefono in una radio a Padova. Hai visto? Ma guarda, ma che emozione ascoltarti anche in radio attraverso il web. E poi questa canzone, devo dire, mi ha conquistata dal primo ascolto. Beh, di Simona. Poi ho avuto modo di riascoltare Luigi quando siamo stati insieme una notte a Radio 1, è veramente da brividi, ed è un perfetto esempio di come si possa mettere in musica una serie di parole, di pensieri, di temi importanti e scottanti, e una sintesi perfetta di davvero di una canzone d'autore che emoziona, che fa riflettere. Poi un tema attualissimo, perché purtroppo i negazionisti, così come gli stupidi, insomma, sono ricorrenti in tutte le epoche, purtroppo anche attuali. E quindi davvero una canzone che è un po' uno schiaffo, un po' invece è un concentrato di emozione, bellissima davvero. Ma io non so, ma te la sei preparata? Ma no, è fantastico. Assolutamente, guarda, è una sorpresa anche per me questa telefonata di adesso. È un'idea mia, è un'idea mia. Diciamo che siamo amici, quindi però... è chiaro che escono queste bellissime parole. Però lei è una delle ragazze più, veramente, più vero e più sincera che ho conosciuto. Ma vero che c'era anche Anna Chiara Zincone? C'era anche Anna Chiara Zincone, che è un'altra mia carissima amica, arrivata terza, al terzo. C'eri anche tu, Anna Chiara? Salve! Ma che hai fatto? La riunione? Vabbè, cioè, a sto punto chiamiamo anche Frida. Siamo, no, l'ho già chiamata Frida, l'ho fatto, te lo dico sinceramente, correttamente. Io l'ho chiamata prima della trasmissione, ho detto: guarda, non ti chiamo perché tu tanto sarai qui la settimana prossima. Cioè, io non ho parole, cioè, ci stiamo riunendo in radio. Molto bello. Ciao Anna Chiara. Ciao Luigi. Ciao, come stai? Ciao. Io sto bene, tutto bene. E io invece e Luigi ci siamo conosciuti, diciamo, da prima del concorso. Infatti. Siamo ritrovati qua al concorso. Io invece ho seguito tutti i passi della creazione del disco. Proprio le prime bozze. È vero, è vero. Ci siamo conosciuti già da prima. E mi ricordo che abbiamo fatto pure una cosa insieme. Ti ricordi? Una registrazione di un provino. Ho registrato la voce di Luigi. Una gestione improvviso che era dell'inno della squadra di calcio del mio paese, che io ho fatto anche questo. Ero commissionato praticamente. Sì, è stata una cosa, però devo dire che mi ha anche inorgoglito, perché anche buttarsi nel popolare è un'esperienza bellissima che ti fa poi veramente arrivare a contatto con le persone proprio, no? Proprio questo inno lo mettono, insomma, allo stadio la domenica. Quindi è una cosa molto bella. E lei, mi ricordo Anna Chiara, che mi ha aiutato aiutò nella registrazione di questo provino, sì. Allora, sei contento di questa sorpresa? Una sorpresa fantastica. Ecco, queste sono le vere sorprese, cioè quelle che non ti aspetti, anche perché tu hai taciuto. Beh sì, certo. Ma sono d'accordo anche loro, anche Frida. Poi ci siamo ritrovati, oltre che al D'Aolio, ci siamo ritrovati insomma insieme, è stata anche una serata, una nottata bellissima alla Radio 1, no? Uh-huh. Quindi anche Raffaella e Anna Chiara si ricorderanno bene, insomma è stata che atmosfera c'è a Radio 1, Rai, la notte che si svolge praticamente? Ma là, devo dirti la verità, io mi aspettavo delle persone un po' più rigide. Sono bravissimi, Sandro Capitani e Alessandro Manozzi sono stati molto bravi, perché mi sentivo anche a casa, come qui del resto, perché libero anche di parlare. Invece io pensavo, dico, andiamo alla Rai, devi stare attento alle parole, forse la notte lascia un po' i pensieri più in libertà, credo che sia stato quello il motivo. Beh, io ho scoperto Frida, Anna Chiara e Raffaella proprio con quella trasmissione, confesso. Vedi, è servito a qualcosa. Sì, sì, sì, sì, perché uscivo proprio dalla radio, tornando a casa, ho messo il fumo sulla Rai e ho trovato Frida e appunto Raffaella e Anna Chiara, insomma. Io bene, bene. Sei rimasto sveglio fino alle 3 del mattino? Sì, notte. Perché io amo molto, sai, come Maurizio tra l'altro potrà confermare, ascoltare la musica di sera. Poi noi qui in radio stiamo qui fino all'una e mezza, due di notte, ora che sistemiamo tutto, che magari ci ascoltiamo qualche disco nuovo eccetera eccetera, quindi quando esci è già tardi, e perciò sai, comunque la musica non ci manca mai, e quindi una volta che sei in auto accendi la radio e magari anziché ascoltare, che ne so, una canzone, ascolti un parlato. Per carità, quella sera c'era lo special sui Nomadi e su questo concerto, su questo concorso che avete fatto, e quindi li ho ascoltati. Ci hai conosciuti meglio. Sì, sì, sì. Ma io sono contento di questa sorpresa. Chiedo scusa, che uomo è per voi donne Luigi? Ma è un grande artista, è una persona di una grande umanità, ti ripeto, noi ci siamo conosciuti alla fine di dicembre a questo festival, poi lui è venuto anche al mio concerto a Roma la scorsa settimana e mi ha fatto una enorme sorpresa, grande piacere, quindi abbiamo cominciato a conoscerci proprio da poco, ma davvero le impressioni trascinate proprio dall'onda emotiva della musica, che quando è bella e di qualità è onesta e sincera, poi porta anche tutta una serie di cose belle e positive a livello umano, e quindi insomma non posso che dire bene, sia a livello di artista, sia come artista che come essere umano, ecco, una certo, grande umanità e poi una grande sincerità, un bel sorriso, quindi una bella persona. Bene, bene. Grazie di queste parole, ovviamente ricambio. Grazie. Anche per te, Anna Chiara? Ma certamente, Luigi, cioè, stavo dicendo appunto, ha degli occhi bellissimi e secondo me rispecchiano proprio la sua anima, degli occhi azzurri bellissimi che rispecchiano... Sai che limpido, puro. È rosso adesso, è diventato rosso. Io si sta commuovendo. Tutte queste parole non me le aspettavo, mi sarei dovuto preparare meglio. E allora che sorpresa era? Non ce l'hai no, è stata una sorpresa. Vabbè, io quello che però devo ricambiare in qualche modo, e lo faccio ovviamente con sincerità assoluta, sono loro due, oltre che due artiste, grandi cantautrici, sono eclettiche. Io dico questo perché Raffaella, vabbè, a parte la bravura come cantautrice, fa anche un'altra cosa e la fa molto bene, anche una giornalista, insomma si può dire, penso, no Raffaella? Certo, una doppia vita. Fai una doppia vita, al massimo tutte e due. E Anna Chiara anche lei è molto eclettica, è una pittrice, anche una scrittrice, quindi voglio dire, stiamo parlando con due persone molto ricche, non stiamo parlando con sai, due. Sai Luigi che ho strappato loro la promessa che verranno una per volta qui in studio a cantarci qualcosa delle loro produzioni? Vero fanciulle? Sì, sì, assolutamente, sì, io sì, confermo. Quindi anche io confermo la partecipazione. Vi troverete benissimo. No, ma ne sono sicura, perché Agostino è una persona simpatica, poi molto competente, e quindi sarà veramente un piacere. Magari aspettiamo che faccia un po' meno freddo, eh. Io certo, poi sono siciliana, sono del sud, quindi l'idea di venire nel nord-est sotto zero un po' mi... Aspettiamo la primavera, ok? Ok, d'accordo. Beh, tanto noi ci sentiamo, Raffaele. Sì, quindi... sì, assolutamente. Vabbè, noi vi ringraziamo, lasciamo lo spazio adesso alla musica di Luigi. E... Grazie della vostra sorpresa. Enorme. Grazie, un bacio anche a voi. Buona musica. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Grazie della disponibilità a tutte e due. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Un bacione. Ciao, ciao, ciao. Allora, Luigi, Grazie Agostino di questa bellissima ho fatto la scorta di complimenti, starò bene per un anno. Era da un pezzettino, sai, che la stavo studiando questa cosa, quindi ho dovuto coinvolgere anche... ho capito. Mi sembrava giusto regalarti la stessa serata, insomma, nel nostro piccolo che hai avuto lì. Cioè, già sono felice e orgoglioso di avere Andrea e Domenico, mi aggiunge anche altri artisti grandi. Grazie. Ci fai ascoltare qualcosa dal vivo adesso? Ah sì, ho qui la chitarra, abbiamo la chitarra, c'è anche Andrea. Avevo pensato, si sente, no? Sì. Va bene. Avevo pensato di iniziare con la canzone che poi fa partire questo disco, è una canzone che non avrei mai pensato di mettere all'inizio, perché comunque è una canzone leggera, abbastanza anche spensierata, se vogliamo, quindi, però mi piaceva iniziare il disco con una canzone del genere, che parte anche con un parlato, perché parte, fa partire la giornata, ecco, si parte col caffè e latte, quindi era l'ideale iniziare secondo me con questo brano che si chiama Il giorno no. Blu Radio Veneto. Certe giornate nascono male già dall'inizio, già dalla mattina presto. Il segreto è non incazzarsi mai. Caffè e latte stamattina e non c'è zucchero in cucina. Arrivo alla posta per pagare le more e resto in fila per un paio d'ore. La schiena è un pianto, la faccia è sfatta, svito il tappo e sorseggio un po'. Cerco l'auto affranto, rimozione coatta, e capisco che un giorno no. E torno a piedi verso casa, con la bile che stravasa. Guardo il cielo, prima così bello, e adesso piove, piove, piove, sono senza ombrello. Il mio piede sbaglia il tempo, che per poco non scivolo. E preso in pieno un escremento, sarà per la fortuna che avrò, se mai l'avrò, vincerà chi non teme. Bianco e nero si alternano, prendila come viene, anche se incappi in un giorno no. Sono giornate dure. Che fare? Andare da lei, chiederle se vuole uscire, girare in meglio questa giornataccia, ma sì dai, proviamo. Vado a prenderla per fare un giro, mi dice non posso e poi declina con un sospiro. Perso resto a casa, mangio un toast, mi verso della birra, mi piazzo in poltrona ma il TG parla solo della guerra. Il mio cervello è un puzzle sparso che domani ricomporrò. Ho il mal di testa, la mia squadra ha pure perso, e ho capito che un giorno no, vincerà chi non teme. Bianco e nero si alternano, prendila come viene, anche se incappi in un giorno no. E sono giornate tragiche. Oggi sei stato un po' Fantozzi e un po' Paperino, ma domani, domani, domani sarai Gastone e spero tu non sia un coglione. Vincerà chi non teme, bianco e nero si alternano, prendila come viene, anche se incappi in un giorno no, anche se incappi in un giorno no, anche se incappi in un giorno? No. Bravo Luigi. Grazie. Abbiamo scritto nella recensione per la presentazione dell'album un pezzo bagnato dal blues, assolutamente bagnato dal blues, non è così Luigi? È vero, sì, io ho notato tra l'altro con grande meraviglia, mentre ho cominciato a suonare e nel frattempo ho cominciato anche a scrivere le canzoni, che ero attirato un po' da sfumature blues. Questa cosa non mi sono mai spiegato il motivo vero, anche perché devi sapere che, confesso la mia grande ignoranza, non sono un grandissimo ascoltatore di bluesman. È strana sta cosa. E quindi non riesco a capire da cosa deriva. È una musica, è un genere musicale che mi mette molta. Mi rilassa in realtà, anche se in realtà poi il blues può essere suonato in tantissimi modi. Certo. Può essere un blues molto più aggressivo, può essere quello più rilassato. Cioè, ci sono tanti generi, tipi di blues. Però ecco, come lo vedo io, lo vedo una musica che mi scioglie. Mi scioglie, e quindi l'ho voluta associare. Al parlato e a, comunque a qualcosa di ironico. Sì, certo, l'ironia. L'ironia, sì. Pezzo ironico, parlato ironicamente, però che il blues si accomuna bene, secondo me. E in questa esecuzione che hai fatto qui davanti a noi, hai accentuato, secondo me, l'andamento blues. Non so se Andrea e Domenico sono d'accordo. Io ho sentito questo. Questo lo deve dire Domenico, che è proprio chitarrista puro. Domenico, anche Andrea può dire la sua. Poi Domenico, avvicinati al microfono. Io l'ho sentito così, Domenico. Vabbè, ognuno poi ha un modo di dire. In realtà non ho pensato a questa cosa. Però adesso che mi hai fatto riflettere, in effetti sì, è vero. Ci sono queste sfumature. Queste sfumature. Sfumature, sì. Andrea, sei d'accordo? No, è vero, un po' dal vivo, comunque è vero che l'accento è ancora più. L'accentuato. Bello, perché è un pezzo difficile quando si apre un disco. C'è sempre si deve avere una certa cautela ad aprire un disco. Io ti dico la verità, ero un po' perplesso di aprire il disco con questo pezzo, perché io lo considero veramente un pezzo leggero, anche se poi in realtà parla, dà un suggerimento di prendere un po' la vita un po' come viene, cioè, ovviamente dei messaggi, chiaramente non il pezzo, no? Però mi pareva troppo leggero, cioè siccome comunque spesso mi piace andare in profondità eccetera, pensavo che poi invece ho detto no, è un mio lato questo qui, lo voglio subito far conoscere, comunque qualcosa. Poi, come ho detto prima, mi piaceva che il disco partisse come parte una giornata. Esatto, giornata. Ha aperto la giornata, aperto fondamentale. Ok, benissimo. Sì, abbiamo aperto la giornata e abbiamo aperto anche l'ascolto dell'album dal vivo stavolta, assolutamente dal vivo. Sì. Io ho scoperto che c'hai un seguito notevole di persone, Luigi. Dove l'hai scoperto? Scusa. I commenti, così che si sentono anche qui nelle visitazioni che abbiamo. Devo dire che piano piano, a furia di suonare, a furia di essere forse disponibile, non lo so, io amo molto essere disponibile con tutti quelli che mi cercano, mi chiedono, mi. Non lo so, forse questo ha fatto sì che qualcuno mi cominciasse a volere bene, non lo so. Mi piace sempre essere presente. Non hai pensato che invece è tutto dovuto alla tua bravura? non ci ho tanto pensato, non lo so. Ma sai cos'è? La bravura è un concetto talmente astratto, cioè, se vogliamo. Io a volte ci vedo anche poco di oggettivo in certi casi, perché veramente ci sono persone che non gradiscono quello che fai, altre invece che ti ritengono un dio, altre che pensano che sei discreto, cioè è molto molto soggettiva la bravura. Ma uno che fa 37 pezzi di italiano del boss non può non essere bravo, ragazzi, 37 pezzi. Diciamo più di che bravo, coraggioso. Esatto, coraggioso. Ma il bravo e il coraggioso qua si avvicinano. Ragazzi, 37 pezzi del boss, cosa incredibile. Diciamo che io l'avevo mai sentito in nessuna parte. Questa cosa è una follia. Ma è una bella follia. Detta così è una follia, e deriva ovviamente dalla mia passione, serie D quasi sfrenata verso questo artista, che ovviamente quando segui un artista da tanti anni, come io in particolare, stiamo parlando di Bruce Springsteen, non può essere soltanto una questione musicale, secondo me c'è anche dell'altro, probabilmente lui mi trasmette qualcosa. Io poi ovviamente ho letto tutte le biografie, no? Certo. Quindi c'è qualcosa in più, non può essere soltanto un pezzo, anche perché. Anzi, credo che proprio una delle tante caratteristiche di Bruce Springsteen è proprio questo, cioè di rendere, anche e soprattutto dal vivo, un brano che apparentemente è banale, renderlo di una vitalità, di una forza, di una no, importanza clamorosa, e questa è una sua caratteristica che chi lo conosce, insomma, conosce molto bene. Fra i tantissimi pezzi che ha scritto, che ha cantato, io ricordo un EP che ho a casa, disco Child of Freedom di Bob Dylan, fatto da lui. Una cosa incredibile. Tra l'altro l'ha forse l'ha anche migliorata. L'ha migliorata, esatto. Dire migliorato un pezzo di Dylan, ragazzi. No, comunque quella canzone, giusto per chiudere su quella canzone, quella era la canzone che chiudeva i concerti di una tournée fatta per Amnesty International nell'88, in cui c'erano grandi artisti amici. Peter Gabriel, Sting, Yusun Dur e Tracy Chapman. C'era, è vero. Era grandi, e loro la cantavano pure tutti insieme, sì, alla però fine. Però lui ha... anche lui, sì, è stato un'interpretazione veramente fenomenale. Ok, ci ascoltiamo. Ok, ci ascoltiamo qualcosa di Springsteen. Perché cosa no? Dici? Ci fai ascoltare no? Qualche tua canzone? Hai qualche voglia, adattamento? Dici? Sì, qualche adattamento. Hai voglia? O avevi preparato qualcosa? No, adattamenti ne ho fatti, come diceva Maurizio, 37. Ha detto anche Ermanno La Bianca, quindi il più grosso conoscitore di Springsteen in Italia. Devo dire che questa follia, un attimo, che ho bisogno di sistemarti. Qua c'è bisogno dell'armonica. Dell'armonica. Che molti pezzi di blues che io ho adattato sono pezzi molto folk, soprattutto perché ho pensato che, leggendo tutti i suoi testi, traducendomeli, eccetera, che probabilmente le storie che raccontavano i pezzi folk rispetto a quelli rock erano più interessanti ovviamente da tradurre, adattare e divulgare. E quindi mi sono concentrato su questi pezzi, che sono delle storie affascinanti di una marea di personaggi oppressi spesso, e comunque a volte anche di serie date, a volte persone che vivono ai margini, no? In particolare credo che questa canzone che adesso magari faccio questo adattamento di è forse la canzone più emblematica rispetto a questo concetto che sto esprimendo, cioè del raccontare gli ultimi del mondo, no? Ed è appunto una canzone che, tra l'altro, lui presentò anche in apertura di un festival di Sanremo, addirittura mi ricordo nel 96 aprì questo festival alla chitarra e voce, e lui pretese che, dato l'importanza del testo, che in sovraimpressione Rai 1 uscissero queste parole. C'era tipo Baudo che presentava il festival. Sì, mi ricordo perfettamente. Come si chiama la canzone? La canzone si chiama The Ghost of Tom Joad. Io ovviamente l'ho tradotta, è Il fantasma di Tom Joad. Rockway, l'onda del rock. Uomini a piedi lungo la ferrovia, senza una meta se ne vanno via, mentre spunta dai monti un elicottero. Sotto il ponte c'è un fuoco che riscalda un po', camminano in fila verso il ricovero. Il mondo in fondo è così misero, intere famiglie in una macchina. L'idea di una casa è solo utopica, la strada stanotte sembra libera, ma nessuno sa dove ci porterà. Resto seduto al fuoco dei falò e aspetto il fantasma di Tom Joad. Il predicatore vuole accendere, mentre fuma in silenzio inizia a leggere. I primi cadranno in pochi attimi, saranno premiati solo gli ultimi, ma la terra promessa si fa attendere. Tra illusioni e ferite profondissime, intanto si dorme in grosse scatole, per cuscini soltanto pietre gelide. La strada stanotte sembra libera, ma nessuno sa dove ci porterà. resta seduto al fuoco dei falò e aspetta il fantasma di Tom Jut. Tom diceva che comunque qualcuno trovi crudeltà, ovunque un bambino cerchi umanità, ovunque c'è odio e c'è meschinità. Cercami bene perché sarò là, ovunque si lotti per la libertà. Un lavoro decente, un po' di dignità, ovunque qualcuno pianga i suoi perché. Guarda i suoi occhi, mamma, e vedrai me. La strada stanotte sembra libera, ma nessuno sa dove ci porterà. Resto seduto al fuoco dei falò e aspetto il fantasma di Tom Jut. Ci vuole grazie. Veramente l'applauso. Luigi, mi hai emozionato, te lo confesso, guarda, vederti cantare, suonare quell'armonica così, un po' di pelle d'oca ce l'avevo, insomma. Ah, grazie. Ma io mi immagino che loro che sono a casa e stanno ascoltando la radio, oppure lo streaming, oppure ti stanno vedendo, ma io sono qui, ti ho a due metri da me, e sentirti in questa maniera è stata un'emozione. Ti ringrazio tanto, ovviamente quello che è emozionante è soprattutto quello che dice Springsteen parlando. Beh, certo. Dei barboni e poi partendo dai barboni fa un'analisi molto più ampia proprio veramente su tutta l'umanità oppressa, no? Certo. Molto molto commovente, sì. E dall'immagine di Springsteen che ti ha seguito e ti seguirà per concerti sei passato un'immagine cantautorale, questo tuo disco di esordio. Fare un disco di esordio è difficile, è complesso, però dà tanta soddisfazione dopo a inciderlo e farlo pubblicare. Quello l'ho inseguito da tantissimo tempo, perché scrivo dal 91 in realtà canzoni. Ovviamente si scrive, si cambia, si cresce, all'inizio si è molto ingenui nella scrittura, poi si cerca una strada, poi si è influenzati dai modelli, poi dai modelli si vuole staccare. C'è tutto un percorso lunghissimo che forse è bene ci sia per arrivare al primo disco, forse per darti proprio la consapevolezza di cosa vuoi esattamente. E io mi sono accorto lungo tutta questa strada che ha portato poi a questo disco di aver scritto canzoni di vario tipo e a un certo punto, quando ho dovuto decidere che tipo di disco fare, soprattutto innanzitutto per quanto riguarda la scaletta, cioè il tipo di canzoni da inserire, mi sono trovato di fronte veramente all'enigma più importante, più al nocciolo vero, perché mi sono accorto di avere proprio davanti a me proprio tre Luigi. Questi tre Luigi, ne scelgo uno, ne scelgo due, li scelgo tutti e tre. E poi alla fine, per una questione proprio di mia sincerità, mia autenticità, li ho scelti tutti e tre. Sono quello ironico, quello impegnato e quello romantico. Esattamente. Io penso che, secondo me, qualsiasi artista dovrebbe, almeno io ho fatto questa scelta, però forse qualsiasi artista dovrebbe essere autentico ed esprimere veramente tutto ciò che ha, proprio per dare l'opportunità agli altri di vederlo in toto, no? Non soltanto a metà E quindi per una questione proprio di mia sincerità ho fatto questa scelta, quindi diciamo un terzo del disco hanno questo tipo di canzoni. Naturalmente questo mi ha obbligato per forza a escludere dal disco alcuni pezzi, magari quelli, alcuni intimisti a cui tenevo tantissimo e che magari sono anche più belli di alcuni che ho inserito, però l'esigenza che avevo io proprio di sincerità, di autenticità in toto mi ha portato a questa scelta, e quindi l'ho fatto questa scelta per quanto riguarda quindi i brani. Poi naturalmente dopo tutto questo, che è il primo lavoro importante da fare di scrematura, c'è stata tutta la difficile scelta di come fare il disco, dove farlo, come, perché, gli arrangiamenti eccetera. Ho pensato che la prima cosa da fare era stare tranquillo a casa, perché avevo tante idee, lo faccio a casa a Lecce, lo faccio da un'altra parte. Ho detto no, sto a Roma tranquillo, quindi innanzitutto ho scelto di stare a Roma, l'ho registrato all'Albano, pochissimi chilometri da Roma, e soprattutto volevo trovare una persona in gamba, oltre a livello professionale anche con cui mi trovassi bene a livello umano soprattutto, e questo è stato, perché ho trovato anche più di quello che mi aspettavo a livello generale, veramente umano, professionale eccetera, che si chiama Alberto Lombardi, ha uno studio, un piccolo gioiello veramente, tra l'altro l'ha inaugurato col mio disco, nel senso che prima lui ha fatto anche alcuni dischi, però non era proprio lo studio dove abbiamo fatto, era un più piccolino, aveva meno strumenti eccetera. Questo Alberto Lombardi, che è chitarrista, arrangiatore, produttore artistico anche di vari dischi, ho fatto alcuni dischi, uno con Rosario Di Bella, un altro con Alfredo Serafini, ha fatto il chitarrista anche per alcuni artisti importanti, Barbarossa e altri. E quello che ho notato in Alberto è il grandissimo rispetto che lui aveva per la forma canzone nuda e cruda, da cui poi si partiva per qualche idea e svilupparla eccetera. Però io tante volte andavo lì e ho detto vada, io voglio inserire questa canzone, però che ne so, non mi piace tanto il finale, perché dice tu l'hai scritta così, cercava di, oltre che correggermi, perché la prima cosa che fa un produttore artistico è correggerti subito, no questo no, togliamo questo. Lui ha avuto un rispetto incredibile per la struttura canzone che io avevo comunque sviluppato negli anni ed era rimasta in quel modo magari per 4-5 anni, e mi ero accorto che magari andava bene perché nel live andava bene, no? Quindi ho avuto questo rispetto del mio percorso in realtà, Alberto, quindi lo ringrazio moltissimo per questo, e poi ci ha messo ovviamente del suo, mi piace molto come lavora, perché è molto professionale in ogni aspetto della, preparato volevo dire, in ogni aspetto della produzione di un disco, no? dal coro, dall'armonizzazione di un coro che può essere assoluto, fino al dettaglio minimo. Il titolo non hai ancora detto del disco. Il titolo è incredibile, non abbiamo ancora detto il titolo. Il titolo volevo a tutti i costi che avesse a che fare col tempo, perché è una mia ossessione il tempo, quindi il titolo è asincrono. Prima doveva intitolarsi Questo tempo che ho, che è la ballata del disco a cui sono più legato in assoluto, perché è quella che mi rappresenta di più, però ho pensato che asincrono innanzitutto potesse un po' stimolare un po' di più a livello così di originalità, ma soprattutto perché mi sono accorto che di sentirmi asincrono è proprio io come persona, sono abbastanza sfasato rispetto a tante cose, il disco rappresentava questo mio sfasamento rispetto a alcune cose che non condivido della società, della politica, oppure nei rapporti umani, no? Perché nel disco si parla anche di sfasamenti, certo, nei rapporti umani, che siano essi di coppia o siano essi nei rapporti col padre, si parla sempre di disagio, di qualcosa di che ha a che fare con l'incomunicabilità, e quindi asincrono mi sembrava perfetto in realtà. Certamente. Cosa dice Agostino? Non so cosa ci dice Scaletta. Lui ha accennato agli ospiti, eccetera. Siccome ce l'abbiamo gli ospiti, esatto. Se abbiamo Andrea. Andrea prima mi ha fatto una confidenza, mi ha detto che avete preparato una canzone, quella che tu hai voluto dedicare alla struggente storia di Edoardo Agnelli. Sì. Ci fai ascoltare. Infatti, allora, questa devo fare una piccola premessa. Avevamo pensato, dato che nel disco ci sono tanti camei, non sì. Diciamo duetti perché sono in realtà dei gamei. Io volevo fare in definizione più giusta. Sì, perché in realtà sono talmente. Io avrei voluto inserire tantissimi ospiti, anche più di quelli che ci sono, e già ce ne sono tanti. Tutto il condominio cantautori. Tutto il condominio dell'asino che vola. Bravo, vedo che hai letto, ti sei informato. No, ma sono talmente tanti i cantautori bravi che io conosco, che, e poi soprattutto quelli con cui ho legato per quanto riguarda proprio i rapporti d'amicizia, che veramente volevo inserire, però non era possibile. Allora ho deciso innanzitutto che non sarebbero stati dei duetti, perché poi uscivano album di duetti, ma che sarebbero stati dei piccoli interventi, e quindi poi fra i tanti ho dovuto scegliere, non sapevo comunque questa canzone va bene per quest'altro, insomma ho dovuto, no, accoppiare rispetto anche al tipo di canzone, perché non è che potevo far cantare un genere completamente, no, diverso da quello. E poi allora è uscita sta storia che alla canzone Edoardo, che io sapevo, questa dedicata a Edoardo Agnelli, che sapevo che tra l'altro piaceva anche molto ad Andrea, la dovevamo fare insieme sul disco. Poi per una serie di ragioni ho evitato questo duetto, perché ho pensato che forse era una cosa talmente intima di rapporto fra padre e figlio, che forse un duetto o comunque un cameo poteva risultare non ridondante. Tanto è vero che ho scarnificato proprio anche l'arrangiamento, e la canzone è solamente pianoforte e voce, basta, no? Quindi ho fatto proprio una scelta artistica in realtà precisa su questa cosa, però è rimasta sta cosa che noi dobbiamo cantare questo brano. E quindi mi fa molto piacere adesso se lo facciamo insieme, perché faceva parte dei nostri progetti. Lo vogliamo, ce lo fai? Ce lo fate? E facciamo Edoardo, sì. Abbiamo fatto molte prove, naturalmente, però. Con Andrea Paglianti, allora. Ok. Luigi Mariano, Andrea Paglianti con Edoardo. Non sono come te, papà, non amo le luci e resto nell'ombra confuso in questa nera fuligine che mi imbratta la faccia delle mani, mi rende diverso da quello che sono, umiliato nella mia solitudine. L'Oriente, non sono come te, papà, non amo le macchine, di notte scrivo canzoni, poesie e a volte parlo con gli angeli. Puntavi su di me, lo so, e non volevo deluderti, ma la mia mente era altrove, più lieve, come un pensiero già libero. E volo, inabissandomi tra muri d'aria e cielo, e nel silenzio troverò complicità. E grido, sale un rimorso nella gola mentre cado, ma in questo viaggio io forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Sono come te, papà, non amo dirigere e non sono una guida a cui il popolo affida ogni sua greve inquietudine. Non parli mai di me, lo so, te ne vergogni, rimarrò ad aspettare un sorriso sul viso per raccontarti i miei sogni. L'Oriente è la mia idea più affascinante fra tante, la mia fuga dal presente eccitante, amagliante, struccia. innocente, innocente, ma inconsistente. L'Oriente, l'Oriente, l'Oriente, come un sole si sprofonda l'orizzonte, incapace di riempire questo niente, di sorreggere queste braccia come ali di un aliante, liberatesi da un ponte. Volo in abissandomi tra muri d'aria e cielo, e nel silenzio troverò complicità. Io la volevo da te, papà. E grido, nella gola mentre cado, ma in questo viaggio forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Io la cercavo da te. Questo viaggio forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Da te. Io la cercavo da te. Maurizio, io non ho parlato. Meravigliosa, meravigliosa, bravissima. Grazie da Andrea. C'è un'atmosfera qui in studio che è veramente una cosa pazzesca, insomma. Io veramente sono onorato di avervi qui. Poi Andrea, insomma, hai regalato. L'amicizia è una cosa bellissima, vero ragazzi? Sì. Finalmente abbiamo realizzato questo sogno di duettare in questo brano che ce l'avevamo in testa da tempo. A proposito di amici, Luigi, ti porto i saluti di Nadia. Ah, Nadia è una delle amiche più care in assoluto. Lo vuoi salutare tu, Nadia? Nadia, mi senti? Nadia? Ah, ciao, in diretta. Nadia, mi senti? Ciao, ciao, ciao Agostino, ciao Luigi. Ciao. Sono felice, sono molto molto felice di intervenire alla trasmissione stasera. Grazie. Perché, come sa Luigi, io lo seguo da anni, ho visto i suoi concerti a Roma e sono stata anche felice di essere presente alla presentazione del disco asincrono All'asino che vola, poi tutte le serate con il condominio cantautori, e veramente gli faccio un grande in bocca al lupo perché è un artista straordinario. Grazie. E soprattutto apprezzo di lui, ecco, la capacità di trasmettere emozioni e anche la capacità di avere una padronanza significativa di parole e musiche. E soprattutto dei suoi pezzi amo Questo tempo che ho, che spero poi mi farà in acustico fra poco. Sarà fatto. Ok. E gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la partecipazione il 20 febbraio a Novellara, perché comunque... Ah sì, giusto, ricordiamolo. Un grande riconoscimento poter aprire il concerto dei Nomadi al Nome d'Incontro, anche in ricordo di Augusto Daolio. Sì, infatti, ti ringrazio di tutte queste parole. Vabbè, noi siamo molto legati, naturalmente. Io quindi... lo sapevo. No, vabbè, Nadia è una delle persone più care e credo che, a parte la sua dolcezza, eccetera, è una delle persone più generose che io abbia mai conosciuto. Veramente mi riempie di regali, di cose bellissime. E io potrei dire la stessa cosa di Luigi, perché è una persona cordiale e ha un grandissimo cuore, sa essere veramente un vero amico. Grazie, grazie veramente. No, allora ci sentiamo presto, Nadia, quando in torno a Roma. In bocca al lupo e mi raccomando una buona permanenza a Padova. Grazie. A tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e un abbraccio ad Agostino e tutti. Grazie Nadia. Grazie, un bacio. Grazie, ciao. Grazie Nadia. Ciao. Ciao Nadia, ciao, grazie. Allora, contento. Una sorpresa dopo l'altra. Basta, questa è l'ultima. Mi chiamo tutti gli amici. Ho voluto darti un po' di calore attorno a te. Ah, grazie. Il calore mi sento a casa. Già mi sentivo a casa prima con loro, con voi. Insomma. Spero adesso di averti, ancora di più. Spero di averti regalato dei bei momenti, insomma, con queste voci, insomma, che ti stanno veramente grazie, molto veramente. Persone molto care, sì. È anche la prima volta che lo fai dal vivo questo pezzo assieme ad Andrea. Sì. È una nuenza assoluta per assoluto. Radio Veneto. È Rock Wave stasera. Rock Wave è esclusiva assoluta. Sì, sì. Perfetto, siamo molto onorati di questo. Dobbiamo dire che questo pezzo io l'ho messo su nel programma notturno che facciamo tutti i giorni, da circa due settimane. È un pezzo meraviglioso, sì, perché parla di un personaggio fuori del coro, un Agnelli fuori del coro, che ha avuto il coraggio di essere fuori del coro. Qualcuno dice perché l'hanno buttato fuori del coro. Però tu hai parlato di questo personaggio. Ma sì, perché secondo me non c'è cosa più affascinante che parlare dei personaggi più difficili, più, esatto, ombrosi, più perché resta sempre qualcosa da capire. È vero. E quindi attraverso una canzone forse magari uno cerca anche di entrare un po' nel personaggio, soprattutto se magari, che ne so, intravede alcuni aspetti che forse gli ricordano qualcosa anche di sé, perché per esempio il rapporto col padre non è mai una cosa semplice, soprattutto per chi sceglie una strada diversa da quella che il padre si aspetta. Probabilmente è successo anche con me, quindi all'inizio mio padre, insomma, è rimasto spiazzato da queste mie scelte artistiche, non credeva. E naturalmente anche Edoardo non credo che fosse molto portato dall'imprenditoria. No, non aveva le macchine in testa. Non aveva proprio le macchine in testa e soprattutto era molto più spirituale, molto, volava proprio alto, e credo che questo l'abbia un po' gettato in una sorta di... Perché da una parte lui, io anche nel libretto dei testi del CD ho scritto ho riportato una lettera che lui aveva scritto alla sorella, esatto, appena laureato, e in cui si nota proprio la cosa che mi ha commosso di più. Sì, da una parte lui scappa da quel mondo, ma dall'altra lo vuole rispettare. Quel rispetto mi ha commosso, perché è un rispetto che non ha a che fare con la cosa professionale, ma con una questione di radici, secondo me, radici familiari. Cioè, è comunque mio padre, io dovrei continuare il suo percorso, eccetera. Invece poi ha avuto questa forza di andare via, però questa forza era anche grande debolezza, naturalmente. Certo. Mi ricordo un flash, un grande pezzo da padre e figlio, da Father and Son, di Cat Stevens. Cat Stevens, infatti. Sai che è la mia canzone preferita. Lo so, ma Stevens è nell'animo mio da sempre. È un pezzo meraviglioso, questo rapporto tra padre e figlio, sì, gestito, colorato da Stevens. Tra l'altro è stato questo rapporto tra padre e figlio, diciamo che ha veramente condizionato moltissime generazioni di artisti, perché in tantissime opere d'arte, voglio dire, c'è il conflitto, no? Certo, il passaggio di una generazione all'altra, che comunque è una cosa difficile, mentre una madre è sempre più comprensiva, anche quando non ti capisce, però ti dice, fa finta di capirti, dice, no, io ti capisco. Invece il padre c'è sempre questa rottura, questa. E quindi sì, anche tornando a Bruce Springsteen, anche lui aveva quel rapporto, sì, difficile, poi ne ha dedicate tantissime al padre in canzoni blues. No? Cosa ci fai ascoltare adesso? Ah, continuiamo con qualche canzone dal disco. Vuoi il disco? Voglio un po' di disco. Io mi sono dimenticato le canzoni, no, sto scherzando. Allora, abbiamo mandato il negazionista, no? Abbiamo mandato, sì, prima, ho, certo, fatto il giorno no, ho fatto Edoardo adesso. Ma vorrei fare una canzone che parla di coppia. Posso farla? Certo. Certamente. Allora, ho sempre visto i problemi di coppia come qualcosa abbastanza da affrontare con grande, no, attenzione. Però questa canzone, che poi ha dato il titolo al disco, parlo incredibilmente, perché poi alla fine la canzone parlava solo di rapporti di coppia, poi ho voluto ampliare questa parola asincrono a tutto il disco, e la canzone che sto per fare appunto è questa, Asincrono, e parla invece di rapporti di coppia in maniera ironica, diversa quindi dal solito. Io volevo proprio cambiare un po', ho detto, ma vediamo un po' che cosa succede se ne parlo in maniera più spensierata, magari sdrammatizzando si sciolgono anche le tensioni, e quindi ho cercato di farlo, e si chiama appunto Asincrono. Sodo aspettando la domenica, sperando sia fantastica per depurarmi un po', e faccio il pieno di benzina per portarti su un collina, ma tu sbotti che quel giorno non si può, e poi in montagna vuoi tornare mentre io mi sogno il mare, una spiaggia, l'acqua cristallina e blu, e si resta invece a casa, scendo giù, faccio la spesa non sapendo che avrebbe fatta tu. e mi preparo un bel brodino riscaldato per Benino, mentre intanto tu divori nespole. Passo al pollo e dal tacchino, al formaggio, allo stracchino, quando ormai ti sei scolata giù il caffè. Ma noi a cercare un filo logico. Ma dai, è un amore un poco asincrono. Siamo asincroni, ho detto anche prima. Ti vorresti poi sfogare nei dettagli dilungare, ma bandiera bianca subito alzerò. Mentre io sto lì a studiare, tu vorresti far l'amore. Quando arrivo, sonnecchi già da un po'. E mi parli a voce bassa, triste, satura e depressa, proprio il giorno in cui suono euforico, dai. E vorresti saltellare e poi ridere e ballare, quando i dubbi in testa mi arrovellano. Vorrei farmi una dormita, ma tu vuoi la passeggiata. Ci incazziamo e ci perdiamo in chiacchiere. Resto sveglio, tu seduta nell'orgoglio devastata. La serata ormai è un vuoto a perdere. Ma noi a cercare un filo logico. Ma dai, è un amore un poco asincrono. Ma noi troveremo un filo logico. Ma dai, è un amore un poco asincrono. E noi viviamo in modo asincrono. E cantiamo in modo asincrono. E dormiamo in modo asincrono. E andiamo a fare la spesa in modo asincrono. E godiamo in modo asincrono. E vai. L'ironia, l'ironia, bella, l'ironia se ci serve, vuole sempre. L'ironia però per far sentire, vedere, capire certe cose. Sì, certo. Perché ho sempre pensato, quando ho scoperto l'ironia nella scrittura, perché prima sono sempre stata una persona ironica, però poi metterlo nelle canzoni non è mai facile, che fosse un veicolo importante, per qualcosa per far arrivare prima il messaggio. Ho sempre pensato questo, che magari arriva subito alla pancia e con il piccolo sorriso, no, arriva prima quello che vuoi dire. Certo, certo. Hai detto che ci sono tantissimi musicisti, quindi sarà un problema citarli, ma qualcuno li puoi citare nel disco, sì. Alla batteria e al basso hanno partecipato bravissimi, veramente musicisti che tra l'altro suonano spesso con Paolo Turci e Marina Rei, Max Gazzè anche e Samuele Bersani, che sono Marco Rovinelli, il batterista, bravissimo, tra l'altro con cui ho stabilito anche un bellissimo rapporto, anche se in realtà poi dal vivo abbiamo suonato pochissimo. Io poi sono con un altro carissimo mio amico che si chiama Dario Esposito, e poi là basso Pierpaolo Ranieri, lui suona spessissimo con Paolo Turci, tra l'altro prossimamente farà un concerto a Roma al The Place, e hanno dato tanto sia al disco, devo dire. Poi li conosceva molto bene Alberto Lombardi, il mio produttore, è stato lui a chiamarli, loro sono molto appassionati al progetto, sono stati eccezionale, professionalmente perfetti, veramente. Poi hanno partecipato altri, a parte Alberto che ha suonato tutte le chitarre, eccetera. Il mio carissimo amico Gianni Donigio, assolutamente, siccome suona come il basso spesso nei live, io l'ho voluto assolutamente nel disco, a suonare il basso in tre pezzi. E poi al piano Michele Amadori, cantautore oltretutto, però anche bravissimo pianista. E alla viola c'è stato Carmine Fanigliulo, che ha suonato la viola anche lui in tre pezzi, arricchendoli molto, devo dire, soprattutto tre ballate, stanno brevissimi. E poi c'è Giulia Led, Nico Verienti. Ecco, poi ci sono gli ospiti. Gli ospiti, sì, sono tutti cantautori praticamente, quelli, gli amici cantautori. Pigi, che ha duettato con me nel giorno no, Marilena Catapano, cantautrice di Firenze, mia sorella praticamente, altri, Francesco Spaggiari, Daniele Sarno, Aria Mag, Chiara Morucci, che ha fatto la voce femminile nel brano che ho appena cantato. Sono tutti bravissimi cantatori, quasi tutti romani, tranne qualche eccezione, che magari ti stanno ascoltando. Nico Verienti, sì, tutti amici carissimi. Allora, ricordiamo che questa è sempre Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara cerca di farvi conoscere un po' di più questo meraviglioso cantautore romano, cioè Luigi Mariano, che ci è venuto a trovare direttamente e appositamente da Roma proprio questa serata, giovedì 10 febbraio 2011. Siamo in diretta 23:38 in questo istante, ancora una mezz'oretta scarsa, e ancora voglia di ascoltare la voce di questo amico di Blu Radio Veneto. E cosa ci fai ascoltare adesso? Ma adesso volevo andare su un brano che è abbastanza amaro, questo devo dire, un brano che analizza un po' il mondo che viviamo, e l'ho scritto 5 anni fa, però è incredibile, nonostante cito delle cose abbastanza specifiche che potrebbero far rientrare il brano in un brano d'attualità, però è abbastanza attuale tuttora e quindi lo continuo a fare, addirittura l'ho inserito nel disco in questo brano, proprio perché sono abbastanza scoraggiato e amareggiato, mi rivolgo a una figura di riferimento che dovrebbe essere consolatoria, che è uno dei miei modelli artistici, che è Giorgio Gaber. La canzone si chiama Cosa avrebbe detto Giorgio. Avrebbe detto Giorgio di questi anni andati via, che nella coda han visto il marcio della solita ruberia di banchieri e finanzieri, e di come si son presi tutto e l'Italia torna ieri, che il futuro ormai è distrutto. Cosa avrebbe detto Giorgio di Fallujah devastata dalla pioggia incandescente che l'ha di colpo rinsecchita? Vuoi vedere che era pace pure quel giorno di Hiroshima, e feroce nuoce cuoce questa pace un po' assassina. Cosa avrebbe detto Giorgio di questi anni di censure, del bavaglio ai giornalisti rieducati nel terrore, licenziati, allontanati, umiliati nel dovere, dove i fatti sono spariti e defunto ormai un mestiere? Cosa avrebbe detto Giorgio della mafia che cammina con le scarpe del ministro sopra il ponte di Messina, e Mussolini è in Campidoglio che fa il saluto romano, presidente del consiglio, Don Bernardo Provenzano. Avrebbe detto Giorgio del Vesuvio nell'immondizia e di ciò che abbiamo perso assieme al senso di tenerezza quando poi si tocca il fondo e si comincia un po' a scavare. Giorgio conosceva il mondo, c'è sempre un'isola nel mare. ti ha ispirato molto a te Giorgio Gaber, no? Sì, è sempre stato uno dei miei modelli, anche se in realtà confesso questa cosa abbastanza imbarazzante, l'ho conosciuto nel suo complesso artistico abbastanza tardi in realtà, perché diciamo che per anni mi sono mancate, diciamo, nella mia cultura proprio musicale moltissime cose che lui aveva fatto e che ho riscoperto proprio in toto, perché poi sono andato a spulciare anche i dettagli più insignificanti della sua produzione dopo, l'ho scoperto dopo, anche che ne posso dire, parlo anche della sua produzione teatrale, cioè non soltanto certo, quella musicale, cioè, nel senso che mi sono andato proprio a spulciare i monologhi anche nel dettaglio, quelli che aveva da parte, molti non li conoscevo, quindi mi sono fatto una cultura su Gaber pazzesca, che devo dire che la cosa che mi ha sempre colpito più di lui, insomma l'hanno notato in tanti questo, che si distingueva molto dagli altri cantautori, secondo me era proprio diverso. Si tirava fuori da tutto, lui aveva questo cervello in continuo movimento, non riusciva a stare fermo, e lo dimostrava poi anche sul palco, perché si snodava tutto, no? Anche a livello fisico proprio, e questo suo snodarsi fisico era anche la rappresentazione, secondo me, estetica anche di quello che aveva in testa, cioè era sempre col cervello vivo, non si sarebbe mai fatto ingabbiare da nessuno, e quindi questo poi naturalmente porta questi personaggi che poi, grazie a Dio, nella cultura italiana, nella musica, nell'arte, cioè, ci sono stati per fortuna alcuni personaggi di questo genere, però ecco, in particolare nelle canzoni, secondo me, anche nel modo di scrivere, era molto originale, secondo me, scriveva delle canzoni proprio a modo suo, in maniera spesso anche surreale, no? O anche simbolica, o soprattutto teatrale, naturalmente, perché era anche un grandissimo attore. Quindi questo suo modo diverso di fare canzone d'autore mi ha sempre molto molto colpito. E come spesso accade, è stato rivalutato dopo la sua scomparsa. Sì, è vero, sì. Guarda, secondo me uno dei motivi è stato che lui, dopo un successo clamoroso che aveva avuto negli anni 60 a livello televisivo, quindi un successo di massa, certo, ha cominciato a capire che quello non era il suo mondo, no? Le lustrine, le paillette della TV, molta falsità, molta superficialità, e poi quando ha cominciato a capire che c'era la censura, cioè, queste cose non facevano proprio per lui, quindi si è proprio estraniato completamente, ha voluto ritagliarsi il suo pubblico soltanto a teatro, non pubblicizzava niente. Si sapeva soltanto che Gaber faceva quegli spettacoli, non c'erano neanche i dischi, non pubblicava più dischi, chi voleva quello che faceva dopo lo spettacolo teatrale andava a comprarsi il disco e certo, che stava lì al teatro, quindi questo da una parte, devo dire la verità, io ho una doppia visione di giudizio su questo, da una parte credo che sia una cosa meravigliosa, affascinante, che me lo rende immenso, dall'altra però mi dispiace, perché comunque non divulgare per nulla quello che fai a livello discografico forse priva qualcuno, che ne so, della tua arte, forse, non lo so, quindi forse poteva fare una via di mezzo, ecco, poi questo lo dico anche perché io so che quando lui ha pubblicato gli ultimi due album, sì, uno dei quali è addirittura postumo, vero, uno si chiama La mia generazione ha perso, l'altro Io non mi sento italiano, mi pare che negli ultimi tempi un po' si pentì di questa estremizzazione che lui aveva fatto del fare arte, cioè solo teatro, solo niente dischi, cioè era molto esagerata, no? E quindi diceva, peccato, in effetti forse avrei, però insomma alla fine ha fatto così e ha fatto questa scelta, sì, che è apprezzabile comunque. E ricordiamo che l'ironia è il punto di forza di Gaber, io ricordo un pezzo che si chiamava La risposta al ragazzo della via Gluck. Via Gluck, sì, sì, era di Celentano, lui, sì, aveva fatto La risposta al ragazzo della via Gluck, sì, e non so se i rapporti con Celentano come erano all'epoca, lui faceva parte alla grande del clan, però La risposta al ragazzo della via Gluck era un po' il Torpedo, tutti quei pezzi che sembravano stupidi, ma stupidi tra virgolette non erano per niente stupidi, erano sì vivaci, divertenti, però avevano un testo sempre amaro, poi gli scriveva, sì, in una, sì, certa maniera. Ma poi anche come grande la città, quella lì, sì, che apparentemente è sempre un'esaltazione della città, invece la sta prendendo in giro. È vero. Questa è la grandezza di casa, sì, perché ti fa credere le cose, in realtà ne sta dicendo altre. Certo. E invece porto nel cuore quando sarò capace di amare. quella è, quella tra l'altro, del penultimo album, è una canzone che anche Non insegnate ai bambini, è bellissima, sì. Sono due canzoni che amo moltissimo di Gaber. Poesia, sì, quella sì. Anche se devo dire una cosa, lui sicuramente ha fatto molte canzoni anche molto poetiche, però anche questo ho notato di lui e tutto sommato mi ha colpito anche in positivo, perché si distingueva in questo, cioè che in realtà la poesia lui l'ha utilizzata meno degli altri cantatori, perché voleva utilizzare altri artifici per far arrivare le cose, secondo me. Cioè, quando queste due che hai citato ovviamente sono ultra poetiche, no? Però voleva arrivare attraverso altri meccanismi, il meccanismo teatrale, il meccanismo dell'ironia, il meccanismo del surreale, tante altre storie, no? Ah, sono scelte artistiche, naturalmente. Piccola parentesi, saluti arrivano da Fede, non so se sia una tua ascoltatrice o forse una nostra ascoltatrice, ci ha salutato in chat, e poi ancora un amico di Blu Radio Veneto che si chiama Massimo Daniele, Maci per gli amici. Massimo Daniele, sì, lo conosco. È un amico nostro e anche tuo, quindi sappiamo. E poi saluti che tu penso abbia veramente tantissimo piacere, non perché gli altri non gli abbia piacere, ma insomma credo che Frida Neri, insomma, sia. Saluto Frida con grandissimo piacere, perché anche lì ho trovato un artista eccezionale. È una grande persona, sì. Maurizio. Sì, sono 23:48. Io proporrei questo, Luigi, visto che sei qua, arrivi da Roma, hai fatto un lungo viaggio. Sì. Suoniamo, cosa suoniamo? Continuiamo a suonare? Certamente. No, io avevo pensato, dato che ho fatto questa canzone in cui era Mara, però aveva come sfondo la figura consolatoria di Giorgio Gaber, avevo pensato di fare la canzone che forse è più gaberiana che ho scritto, almeno così mi hanno detto. Io ovviamente l'ho scritta di getto e poi dopo mi sono accorto che in effetti aveva questa influenza molto forte, soprattutto nella teatralità, certo. Che parla di somatizzazione della nevrosi. A volte c'è chi soffre di gastrite, di nervosa, c'è chi soffre di mal di testa, c'è chi soffre di mal di pancia. Io ho questo disturbo che si chiama, che è il singhiozzo. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Mi è venuto il singhiozzo. E adesso che faccio? Dovevo cantare una canzone d'amore. Dovrò rinunciare. Oppure cambiare programma in scaletta. Salvare almeno la faccia. Ma il pubblico aspetta. Bisbiglia borbotta. C'è forte imbarazzo. E un po' di sconcerto. Il fonico sbuffa. Qualcuno già fischia, ma io non desisto, no. E resto qui, al mio posto. È un mondo perverso, per certi versi già morto, che fa fatica a capire ogni disagio interiore. Nessuno sa più ascoltare, nessuno sa più ascoltare. Mi è tornato il singhiozzo. Perdonate l'impaccio. Non l'avevo previsto. E non c'era, ve lo giuro, non c'era nel testo. Trattengo il respiro. Mi trovo un lavoro. Beh, insomma, va meglio, eh? Rientro nel giro. E poi mi innamoro. E mi è passato. A volte basta pochissimo. Lavoro, l'amore, ti passa tutto. E vai, mi è passato il singhiozzo. Ce l'avevo da un pezzo e mi sento rinato. Sono rinato, ho riempito quel vuoto. E vai, ma dopo sei mesi che succede? Sono già licenziato. licenziato e senza che mai lo offesi. Anche il mio amore è fuggito. È fuggito. È un mondo perverso, per certi versi distorto, che fa fatica a capire qualsiasi accordo maggiore. Nessuno sa più aspettare, nessuno sa più aspettare. Per forza che mi torna il singhiozzo. Ce la fai venire anche a noi. Sei bravissimo, bravissimo. È difficile tenere il tempo perché appunto il tempo è asincrono, infatti per questo chiamo nel disco così. Sì, tutti sfalsati, fa singhiozzo, ritmica della chitarra e canto. Certo, dai che ce ne fai un'altra veloce e poi ci salutiamo, dai. Quando abbiamo lo spazio a due canzoni ce le facciamo, dai. Allora ne faccio un'altra. Faccio una canzone che musicalmente non fa parte del mio background, come si dice, questa parola è strana. Però volevo una musichetta più frizzante perché il testo era abbastanza pesante in realtà, si chiama Solo su un'isola deserta, e leggere il testo magari diciamo questa sarà una canzone di quelle molto sofferte, invece volevo farla proprio più allegra, più per fare proprio questa contrapposizione fra testo e musica, e parla di isolamento questa canzone, sia di persone che vengono isolate a forza, forse magari perché sono più intelligente delle altre potrebbero cambiare in meglio la società, e la società ha paura di qualcuno che potrebbe cambiare in meglio a volte, sia perché si sono da sole, ecco. Vai pure. Vado. In questi anni maledetti stomachevoli e corrotti viene voglia di isolarsi un po', annullare date, impegni, impacchettare bene i sogni e poi imbarcarsi per l'oceano. E su una zattera tarlata, su una barca sgangherata, ciò che conta è che galleggi, dai si parte via gli ormeggi. Cielo nero, notte fosca che preannuncia già tempesta, la burrasca un po' salata. Grazie al cielo superata, ma nel mare non sei solo, c'è la pinna di uno squalo con la faccia di un politico. E ti sorride, scopre i denti, chiede voti a tutti quanti, ma per lui sei solo un numero. Nella lista di inculati, raggirati ed imbrogliati, quante pecore esaltate, poi tosate e macellate, con le palle sbriciolate, io mi chiedo come fate con quei nomi che votate. Voi la mafia la volete, sono solo io qui, su un'isola deserta. Un'isola. E scandaglio noto sondo e mentre cerco naso a fondo, ma poi tento di riemergere. Ma proprio mentre tocco terra già riscoppia un'altra guerra e tutto sembra più difficile. E finanzieri, sanguisuga, capitali, tutti in fuga. Caro prezzi, caro vita, è una strada senza uscita. Il pallone ormai scoppiato, sputtanato, intossicato. La passione della gente che si spegne lentamente, ci si aggrappa alla famiglia come ubriache alla bottiglia, dissetandoci col biberon. Mille amici persi andati, troppi amori disgregati, un usa e getta sistematico. È una corsa perdi fiato dal traguardo un po' sfocato. Se non ci rompiamo il collo ci si annebbierà il cervello. Ammuffiti in reclusione, questa è l'ultima occasione per spezzare le catene e imparare a stare assieme. Sono solo io qui su un'isola deserta. Sono solo e resto su un'isola. Mi ritiro un po' angosciato come un cane bastonato, ma stasera mi rileggerò le parole che scrivevo, i progetti in cui credevo, qualche cosa dentro smuoverò. Ma cosa devo raccontare a mia madre per Natale? Se ogni onesto resta al palo, se ogni ladro prende il volo, io rallento, ho il fiato corto. Sembro su un binario morto, ma c'ho la mia bella scorza ed il pensiero è la mia forza. Sono solo io qui su un'isola deserta. Sono solo e resto su un'isola, su un'isola deserta. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Agostino, citiamo momenti, due appuntamenti che hai qui a Padova. Sì, anche perché c'era, scusa se ti interrompo Luigi, c'era Andrea che stavo dimenticando, lui è un cuoco. Facciamo un po' di pubblicità, che comunque ho visto che hai già fatto il sold out. Sì, è sold out sabato sera, ti bellissimo. Dico, sono strafelice perché cioè, c'è una fiducia notevole di chi mi ha seguito i concerti in questi 3 anni che viene apposta sabato sera per poi vedermi nella veste di chef. È un'iniziativa che ho proposto in questo bellissimo bistrò di Padova, uno dei pochi bistrò rimasti, perché ormai il lounge bar è imperante ovunque, sembra che godiamo in questi banconi bianchi, in questi locali tutti uguali, invece questo qua si contraddistingue per un ambiente molto diverso e molto più caratteristico, più storico anche. E all'interno di questo locale, dove avevo suonato ad ottobre dell'anno scorso, ho deciso di proporgli questa iniziativa nella veste di chef, ossia perché l'altra mia grande passione oltre alla musica è anche la cucina. E questa iniziativa consisterà in una serie di 3 serate, una al mese, una a febbraio, una a marzo, una a aprile, in cui cucinerò, proporrò il menù per l'artista da me invitato. E l'artista di febbraio sarà appunto Luigi Mariano. Perfetto. Che è sabato. Che è sabato 12, sì. In corso Vittorio Emanuele 249. Mi sento molto responsabilizzato, devo dire, di aprire questa rassegna. Mi ha dato una grossa responsabilità. Spero e il nome dell'iniziativa si intitola Dalla chitarra alla brace. Giusto. In cui mi prendo sul serio, anche mi prendo in giro, certo. È autoironico. Ma tu non canti mai, fai solo cucina. Ti dico che già cucinare per 35 persone è un problema. Ti dico che è già un impegno notevole. Molto, molto difficile. Però tu ti fai in 4. Poi presenterai anche prima l'artista, parlare sì, della rassegna. Vabbè, sicuramente farei. Cercherò di spiegare l'intento dell'iniziativa e introdurrò anche l'artista che ospito, il perché comunque alla fine i primi 3 artisti che ho invitato, i primi 2 sono carissimi amici e il terzo, il nome di quello che verrà a marzo ad aprile non voglio svelarli perché li svelerò mese per mese. Io comunque, li ho già visti comunque. Vabbè, febbraio e marzo ci sono carissimi amici, certo. Ad aprile ci sarà un gruppo che è molto conosciuto qui a Padova, che però non ho mai avuto l'occasione di vedere purtroppo, perché comunque in questi anni suonavo anch'io ogni fine settimana, quindi non riuscivo mai a coincidere di riuscire a vederli, e li ho invitati a questa rassegna. Per ora sarà febbraio, marzo, aprile, dopo non si sa mai, che possa essere anche più avanti. In bocca al lupo allora anche per la tua lunga vita al lupo. Maurizio, chiudiamo? Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, ricordiamo anche che domani suonerai. Domani suonerò alla Fahrenheit 451, via Niccolò Tommaseo, un arci in cui ho suonato altre 3 volte, mi sono trovato molto bene. Domani sarà una scaletta però diversa da quella di sabato. Voglio mischiare un po', in modo che se per assurdo qualcuno volesse venire a vedermi 2 volte, troverà due scalette un po' diverse. Certo. E che dire, Maurizio, io ringrazio ancora una volta Luigi. Grazie a voi di essere venuto, della sua disponibilità a venire qui. Diciamo che quest'ora è volata. Quest'ora e mezza. Un'ora e mezza ci è andata velocemente, molto velocemente. E allora io prima di sentire l'ultima canzone di Luigi, volevo ringraziare innanzitutto tutti gli ascoltatori e la partecipazione che è stata questa sera qui a Blu Radio Veneto, dandovi appuntamento a lunedì, e non subito giovedì, ma prima di tutto c'è lunedì dalle 22:30 con udite Patrizia Laquidara, che verrà qui a presentarsi l'ultima sua produzione, l'ultimo suo disco. Questo è un grande onore per Blu Radio Veneto, e quindi grandi musiche, grandi live, grandi artisti che verranno. E poi vi annuncio già domani sera i Rastis, che torneranno, che sono la canzone famosissima con Cristina Donà, quest'anno hanno fatto il disco nuovo, quindi verranno con il disco nuovo, e io vi do appuntamento anche a giovedì con la vincitrice del tanto decantato concorso che ha partecipato Luigi. Ne abbiamo parlato tanto. Sì, cioè Frida Neri, che verrà anche lei in acustico a suonare la sua musica. Sarà una serata bellissima. Quindi grandi appuntamenti qui a Blu Radio Veneto, vi aspettiamo, la musica è bella sempre qui, con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavalla, ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Plisco e anche gli altri colleghi che ovviamente intervistano i vari artisti. Lunedì e giovedì c'è il sottoscritto, sempre con il mio fedele compagno Maurizio. Ah, ci sono io, sì. Sì, sì, ti invito sempre. Luigi, con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo con la ballata a cui sono più legato del disco, che come dicevo prima doveva addirittura dare il titolo al disco, che parla di tempo, parla di sete di conoscere, soprattutto di abbracci, e parla soprattutto della cosa più importante che volevo esprimere, che è il movimento intimo che ha qualsiasi artista nel passare spesso dalla situazione di malinconia alla speranza, no? Fra l'ottimismo e la malinconia, questo ondeggiare continuo fra stare un po' giù d'umore e invece saltarsi per nulla, no? È tipico di moltissimi artisti, quindi questa canzone, che poi farò anche alla Novellara, si chiama appunto Questo Tempo Che Ho. Penso che mi aiuterà anche Andrea, certo, durante la canzone a cantarlo. Ciao Luigi, grazie ancora. Ciao, di grazie essere. Tutto. Ciao, ciao Andrea, ciao Domenico. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao. Goccia che si stacca lentissima, cade sulle foglie dolcissima, a mutamenti climatici, la vita vista da qui. Taglio col coltello una fragola, mano di corallo che sanguina, resta complesso comprendere ciò che è successo e perché. Questo tempo che ho non mi basterà, troppa sete di conoscere, questo mare in petto che si agita, che ha fame di abbracci e ne troverà. Che attraversa il pulviscolo, piano lo rivolta sfiorandolo, sono i tormenti atavici che tornano a un tratto così. Questo tempo che ho non mi basterà, servirebbero dei secoli. Questa stanza buia nasconderà armadi di abbracci e mi vestirà. Questo tempo che ho non mi basterà, troppa sete di conoscere, questo mare mare in petto che si agita, chi ha fame di abbracci e ne troverà, chi ha fame di abbracci e ne troverà. Chissà. Luigi, accompagnami leggermente con un suono leggero, leggero. Devo leggerti una cosa che è arrivato, un messaggio splendido. Accompagnami con un suono dolce, perfetto. Magari un po' più piano, grazie. Allora, è arrivato un messaggio che credo sia giusto leggerlo. Arriva dal Salento, dalla Silvia, dice: grazie alla vostra audacia, in tanti questa sera avranno finalmente ascoltato musica di spessore che scava dentro e arriva dritta al cuore. Questa cosa non è di tutte le radio. Grazie. Armadi di abbracci a voi tutti dal Salento, Silvia. In onore tuo. Una parola, un bacio a Silvia. Ciao. Ciao. Ciao. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock.